mi chiedo se c'è un Dio, non mi interessa. Non credo e non cerco chi ne abbia sapienza. Guardo la storia in sequenza, vedo il clero crescere in insicurezza. Nascere davanti a una scemenza, gli occhi coperti da un velo e crederci davvero. Alla storia e la droga ti do un siero, ad ogni parola rompersi come uno stelo. Col timore che divampa per ogni cero, chiedendo pietà, guardando in cielo. In piazza ascoltando veleno, se parli di povertà, aiuto globale con tuniche in Kashmir. Se te marca a cavalli, allora straparri. Boicottando Darwin, pazzi, non sarà lui a salvarci, perché se c'è impegnato a dimenticarci, rinnegando Pax. Vaticano, casa dei fasci neonazi, tornando indietro con passi in avanti, pronti a schedarci con numeri sugli avambracci. Benedetto l'ipocrita, contando profitti con Fibonacci. Business, dal primo film ai tuoi quotidiani è un business. Le musulmane, i cristiani, i profani è un business. La storia stretta è un cilicio, il prezzo del rischio del cash. Che finanza il biglietto per Cristo è un business. Dal primo film ai tuoi quotidiani è un business. Le musulmane, i cristiani, i profani è un business. La storia stretta è un cilicio, il prezzo del rischio del cash. Che finanza il biglietto per Cristo. Non credo né a Cristo né alla sua controparte malvagia. Credo a chi muore di fame in Asia, il papato che li contempla e li lascia. Credo che abbia i soldi in tasca e dietro una nazione che li incoraggia. Danno il paradiso per soldi, quindi il papa è uno spaccia. Incassa mone, incassa forte, dimentica il prete con la bisaccia. Contraddizioni tipo amati ma col cilicio. È tutto volere di Dio, ma esiste il libero arbitrio. Dalle chiese alle file, contratti divini con le postille. Dalle preghiere da dirle a capirle, chiamarlo furto anche 8 per mille. C'è un'associazione a delinquere che fa faville se finge di non ambirle. Non so se sbaglio, ma la mia certezza è fuorviata. Pensate che è troppo chiusa e serrata, perché la vostra è blindata. Se c'è un Dio io lo cerco, io sono sempre qui fisso che aspetto. Sei tu che manchi all'appello. Business, dal primo film ai tuoi quotidiani è un business. Le musulmane, i cristiani, i profani è un business. La storia stretta è un cilicio, il prezzo del rischio del cash. Che finanza il biglietto per Cristo è un business. Dal primo film ai tuoi quotidiani è un business. Le musulmane, i cristiani, i profani è un business. La storia stretta è un cilicio, il prezzo del rischio del cash. Che finanza il biglietto per Cristo.